e benvenuti a un nuovo appuntamento con Indie Radio, la trasmissione di informazioni indipendenti su transizione di fase. Vogliamo ricordare che i nostri orari hanno subito delle modifiche a seguito delle numerose richieste pervenuteci in tal senso, quindi potrete ascoltare su transizione di fase il nostro programma venerdì, ma non più alle 18, bensì alle 21, e sabato siamo in replica, sempre su transizione di fase, alle ore 12. Quindi buon ascolto di Indie Radio e a presto. Vuole continuare a seguire le questioni che riguardano i referendum. Come tutti sapete, c'è stata questa vittoria dei quattro quesiti, una vittoria che è stata letta e interpretata in misura diversa. Molti partiti che oggi continuano a esultare per questa vittoria in realtà omettono di dire che fino a qualche tempo fa gli stessi certamente non facevano il tifo per i referendum, si mostravano ora ostili, ora indifferenti. Solo negli ultimi tempi appunto gli stessi partiti di centro-sinistra hanno fiutato l'occasione e quindi hanno ben pensato di recarsi alle urne strombazzando questa come una battaglia dei loro partiti. In realtà si tratta, come è ben evidente, di una battaglia e di una vittoria dunque che è stata ottenuta grazie al popolo italiano, quindi non a un partito ma alla gente che ha scelto consapevolmente che cosa fare del proprio futuro, o almeno di una piccola porzione del proprio futuro. E Indie Radio si è anche recata in piazza a Cosenza il giorno del 13 giugno scorso, quando cioè una serie di persone simpatizzanti del comitato, dei comitati referendari, si sono ritrovati prima al Moci, presso l'area delle ex officine delle ferrovie della Calabro Lucana, e poi si sono riversate in piazza per festeggiare e per manifestare a tutta la città la propria esultanza che certamente non è quella di del singolo comitato, ma sicuramente appartiene a tutte le persone, a oltre il 50% di persone che hanno scelto di votare sì per l'abrogazione dei quattro quesiti referendari. E siamo qui a Cosenza durante la manifestazione finale per la vittoria dei quattro referendum. Stiamo un po' chiedendo in giro alla gente che partecipa a questa manifestazione come ha vissuto queste ore frenetiche nell'attesa del famoso quorum. Veramente di frenetico non c'è stato molto, perché ho cercato veramente di non pensarci. Stamattina la prima cosa che ho fatto sono andata su internet a vedere se era cambiato il dato, e poi mi sono concentrata sulle mie attività quotidiane, però perché mi sono dovuta tenere sotto controllo, ecco, ero un po' in tensione e ho incrociato le dita per il quorum, anche se c'era una certa fiducia visto il dato di ieri sera. Poi mi sono recata ai seggi e ho seguito lo spoglio e lo scrutinio. Ho cercato proprio di mettere fretta per il primo e il secondo quesito referendario, anche gli altri mi interessano, però quello volevo sapere il dato subito. È stato, cioè, in tutte e quattro le due sezioni scrutinate, superiore ai 400 voti e qualche no veramente poverino buttato, quella che ha dato soltanto fastidio ai poveri scrutatori che dovevano andare a segnare con la matita rossa, la matita blu, e insomma giusto una rottura. E comunque una giornata veramente bella, tranquilla. Noi stiamo sbandierando Percorso Mazzini, ogni tanto gridiamo e lanciamo urla da Mandriani, giusto così per sfogo, e facciamo un'allegra passeggiata e la gente ci guarda e vive il quorum. Ok, grazie. Allora, siamo qui a Cosenza in piazza 11 settembre per la vittoria di questi referendum. Come hai vissuto questa giornata? Io in maniera molto bella, positiva, perché comunque stamattina lavoravo ma non avevo pensieri per lavorare, nel senso che non pensavo per niente al lavoro, ma pensavo a vedere come andava il referendum. Mi arrivavano anche più o meno dati da persone che facevano amici, che facevano scrutatori, che mi aggiornavano sul dato dell'affluenza. Oggi pomeriggio invece dalle 3 in poi sono stata con il comitato referendario di Cosenza e è stata una bellissima esperienza, perché l'ho vissuta proprio da dentro, ho vissuto l'attesa sia ieri che oggi con il comitato referendario, ed è stato molto emozionante perché abbiamo visto concretizzarsi un sogno perché avevamo lavorato per mesi per fare in modo che il territorio rispondesse e il territorio ha risposto. Ok, grazie. E raccogliamo ancora i pareri e gli umori di questa piazza che festeggia la vittoria dei quattro quesiti referendari. Allora, come hai vissuto, ho qui con me un'amica di vecchia data, come hai vissuto questa giornata? Allora, io non lo so, con molta adrenalina, con molto suspense, non riuscivo a concentrarmi sul lavoro, non vedevo l'ora di poter uscire, sono uscito un'ora prima per poter festeggiare. E voglio dire, non so dove cazzo è la gente che finalmente abbiamo vinto qualcosa dopo tanto tempo. Forse non siamo più abituati a festeggiare delle vittorie. Comunque, da domani in poi, secondo te che cosa accadrà? Guarda, questo non lo so, però in realtà, a parte l'euforia di questa sera, da domani in poi ci dovrà impegnare molto di più, perché questa è una prima vittoria messa in pensamento d'inizio. Se ci lascia andare un po' così sulla vittoria che abbiamo avuto al referendum, così potremmo anche avere brutti smacchi con il futuro. Ora dobbiamo costruire. Abbiamo abrogato forse una cosa, però appunto è il momento di proporre. Ok, grazie. Yeah. parlare di repressione, la repressione che si abbatte con nuove retate e nuovi arresti. Leggiamo dunque questo comunicato pubblicato su Indie Media Abruzzo, datato 14 giugno 2011, che è stato scritto dalla rete dei collettivi studenteschi fiorentini. Il titolo è appunto Nuova retata, nuovi arresti. E si chiede a gran voce: tutti liberi, Firenze libera. Già la retata del 4 maggio scorso aveva suscitato grande scalpore a livello cittadino e nazionale, con 5 arresti domiciliari e 17 obblighi di firma, un tentativo evidente di frammentare il movimento, unito alla criminalizzazione mediatica di pratiche portate quotidianamente avanti dalle migliaia di persone scese in piazza durante le mobilitazioni di questo anno. A distanza di poco più di un mese, la scena si ripete. Stamani, 13 giugno, alle ore 6.30, 16 persone sono state svegliate da agenti della Digos nelle loro case. 6 di questi ragazzi sono ora agli arresti domiciliari, con misure ancor più pesanti rispetto a quelle di maggio. Non possono comunicare con nessuno, a meno che non viva nella loro stessa casa. A 9 è stato invece notificato l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, cioè l'obbligo di andare a firmare nel commissariato di turno svariate volte a settimana. Come se non bastasse, un compagno di Milano è stato rinchiuso nel carcere a San Vittore dopo aver partecipato alla manifestazione in solidarietà degli arrestati di maggio. In totale gli indagati e denunciati tra studenti universitari, medi e compagni, compagne di realtà cittadine sono più di 90. Quella di stamani si configura come l'ennesimo attacco alla libertà personale di ognuno a manifestare le proprie idee. Quest'anno Firenze è scesa in piazza per una scuola pubblica e accessibile a tutti, per città dove sia possibile porsi contro provvedimenti del governo di turno senza essere manganellati, per un paese dove non esistano lager democratici, dove persone vengono rinchiuse e umiliate, perché la memoria degli anni del fascismo non lasci spazio alle nuove destre. Firenze è scesa in piazza per un mondo migliore. Riteniamo che sia importante continuare a portare questi temi nelle piazze, manifestare contro ciò che di questo mondo ci disgusta e per ciò che in questo mondo vorremmo creare. Durante quest'anno, come negli scorsi, nelle strade di Firenze non eravamo in 90, eravamo migliaia. Facciamo appello proprio a queste migliaia di persone che con noi hanno condiviso momenti di lotta e di aggregazione, perché in questo momento tornino a manifestare le proprie idee nelle piazze e nelle strade. E perché portino la loro solidarietà ai compagni e alle compagne colpiti da questi provvedimenti. Un abbraccio ai compagni e alle compagne arrestate, amici, fratelli, che proprio in questo momento non devono mollare. La firma è, come dicevamo, rete dei collettivi fiorentini. E dunque l'Italia continua a vivere questi momenti di repressione che comunque non colpiscono soltanto Firenze, non colpiscono soltanto il centro Italia, ma si riversano anche nel nord Italia. In questo momento infatti si apprende la notizia di queste perquisizioni, di questa repressione che si abbatte ancora una volta sui manifestanti che ritengono di non volere sul loro territorio la TAV. Since 10,000 years and one step in the future. da Indimedia Piemonte leggiamo la notizia relativa alle perquisizioni che hanno colpito alcuni esponenti del movimento NOTAV. Questa mattina intorno alle 6 agenti della Digos torinese hanno perquisito le abitazioni di alcuni NOTAV, tra cui Alberto Pierino e il centro sociale Ascatasuna di Torino, sfondando con un ariete la porta d'ingresso. Con in mano un avviso di garanzia da recapitare agli indagati e l'ordine di perquisizione, gli agenti hanno compiuto un blitz degno di una missione militare. I fatti contestati sono relativi alla notte del 23 maggio a Chimonte, quando il movimento respinse il primo tentativo di presa del cantiere della Maddalena. La questura, su ordine della procura torinese, ha eseguito un'operazione in tempi fulminei, come non avviene per nessun'altra inchiesta. Il tutto teso a mettere pressione e paura nel movimento NOTAV. Alle luci dell'alba, mentre avvenivano le perquisizioni, le notizie sono iniziate a circolare e, siccome sembrava, vista la contemporaneità delle perquisizioni e il dispiegamento di forze, il preludio a degli arresti, è scattata la mobilitazione. Un presidio si è formato a Condove, sotto casa di Alberto Pierino, per denunciare il fatto e portare solidarietà. A Pierino viene contestato un reato d'opinione, istigazione a delinquere, relativo al comizio finale della manifestazione rivolta a Rivoli del maggio scorso e un video su YouTube. Agli altri due studenti universitari del collettivo universitario autonomo, uno dei comitati non nucleare di Saluggia e uno del CSOA Ascatasuna, vari capi di imputazione relativi alla prima notte di resistenza alla Maddalena. Una logica perversa da parte degli inquirenti che vorrebbero Pierino ispiratore e gli altri esecutori. Un ennesimo atto, a cui siamo sicuri ne seguiranno altri, che vede la firma del procuratore Giancarlo Caselli, che, dopo i suoi nemici storici, terrorismo e mafia, ha ora individuato nel movimento NOTAV l'ennesimo avversario da sconfiggere. Per la mattinata è prevista una conferenza stampa, ci ricorda questo comunicato. E in effetti su Indimedia Calabria troviamo un breve, anche se parziale, resoconto di questa conferenza stampa. Dunque, dicevamo che su Indimedia Calabria abbiamo questo resoconto parziale della conferenza stampa. In particolare sono state eseguite le parole di Alberto Pierino, il quale ricorda come fionde, oggetti contundenti, motoseghe, questi sono gli oggetti che cercavano le forze dell'ordine presso le abitazioni dei militanti NOTAV, che all'alba di questa mattina hanno subito le perquisizioni perché sospettati di possedere gli oggetti sopra descritti. Le forze dell'ordine hanno ricercato documenti anche digitali che sarebbero atti ad impedire illecitamente la costruzione della NOTAV. Sono state sequestrate alcune agende con le note stese della NOTAV. L'incitamento alla resistenza al pubblico ufficiale è stato giustificato dalla frase di Alberto Pierino: vi incito a rimanere alla Maddalena, lanci di pietre con fionde, catapulte, individuati in 711 pietre che sarebbero state lanciate in direzione di una telecamera. Le barricate effettuate dal movimento NOTAV, ricorda Pierino, durante la conferenza stampa del 17 giugno ore 13:50, non è pubblica ma è una proprietà privata, per come segnalato da numerosi cartelli segnaletici. La costruzione di una baracca sul terreno della Maddalena è stato l'ultimo capo di imputazione, assieme alle frasi che sarebbero state dette da Pierino. Quindi ci possiamo benissimo rendere conto, da quanto sopra detto, che la situazione sfiora il ridicolo. Ancora una volta la gente viene perseguitata semplicemente perché ha delle opinioni e le manifesta pubblicamente. Quindi ancora una volta reati di opinione, reati dunque politici, che vengono perseguitati in maniera del tutto frenata, con enormi anche dispiegamenti di forze, tutto ciò per intimidire il movimento NOTAV e per bloccare questa protesta strettamente popolare, che, lo ricordiamo, intende dire no alla costruzione di questa linea ad alta velocità, che andrebbe di fatto a distruggere l'ecosistema della Val di Susa. E sempre sulla questione NOTAV vogliamo dare lettura di un comunicato, di un'analisi comparsa su Indimedia Piemonte all'indomani della vittoria referendaria, una analisi che soprattutto vuole stabilire delle linee di collegamento tra il movimento NOTAV e il movimento popolare che ha portato alla vittoria dei referendum. E in effetti in questa analisi si dice proprio che la vittoria del referendum ha dato una ventata di buon umore in un paese messo male. La campagna di sostegno ai 4D è stata una vera e propria mobilitazione dal basso che, avvalendosi di tutti gli strumenti comunicativi possibili, tolti i media ufficiali, ha fatto breccia nelle coscienze assopite degli italiani. Non è una vittoria di nessun altro se non del popolo, che ci ha creduto e ha riscoperto il voto come forma di partecipazione diretta. Perché per il referendum non dovevi votare un faccione qualunque, promesse campatinarie, parole d'ordine fasulle. È stato semplicemente un atto di volontà che ha tramutato in risultato la splendida mobilitazione del popolo dell'acqua e il nascente movimento antinucleare, conditi da un sano anti-berlusconismo. Dire poi sì per dire no non è mai stato così semplice, se di fronte avevi com'era l'arroganza del potere che ci deve vendere anche l'acqua, ma quando l'aria? È il peggior incubo nucleare in salsa italica. Non ha vinto il PD, si mette il cuore in pace, e nemmeno Di Pietro, che ha cavalcato la spinta referendaria. Ha perso Berlusconi e la sua cricca. Con questo sì, hanno perso Chicco Testa e Veronesi, che insieme al buon ex ministro Scajola non hanno avuto la decenza di stare zitti nemmeno ieri. Ha vinto il popolo dei beni comuni, che ha trovato un elemento di riaggregazione intorno ai quesiti referendari. E si sa che, se convinto, il popolo può tutto. In Val di Susa abbiamo festeggiato di buon gusto, non solo perché anche a noi i temi del referendum stavano particolarmente a cuore, ma perché vedere il popolo ricostituirsi tale ci ha fatto sentire in compagnia. Il movimento NoTav è un grande piccolo popolo del bene comune che da oltre 20 anni si è messo in movimento. Difendere la terra, le risorse naturali, i soldi pubblici e non per ultima la dignità. È quello che facciamo tutti i giorni, andando alla Maddalena e tutte le notti, chiudendo le barricate. La nostra lotta, con umiltà e una buona dose di sogni, ha la capacità di incarnare gli stessi temi e gli stessi principi che hanno caratterizzato questa splendida mobilitazione. Il concetto di pubblico, di collettivo, di salubre, di onesto e di comune sono alla base delle nostre bandiere, con un treno crociato. E che non ci possiamo permettere di aspettare. Siamo costretti ad agire per rendere questa battaglia un po' meno impari di come si presenta. Dopo aver dimostrato che fermarlo è possibile nel 2005 e avere riacceso una speranza in tutta Italia, vedendo fiorire, ispirate a noi, mille lotte per la difesa del territorio, siamo rimasti attenti e vivi e i nostri avversari hanno preparato i piani. Ci sembra di rivedere quella scintilla oggi, dopo questo risultato, del quale anche noi godiamo. Legittimo godimento, ma non fino in fondo, perché aspettiamo da un momento all'altro le truppe di Maroni provare a varcare la strada dell'Avanà. Vorremmo che quella strada fosse percorsa da questo nuovo popolo, il popolo dei beni comuni, che è in marcia non solo. Chi conosce la durezza delle salite partecipasse realmente o idealmente alla nostra lotta, che non è solo della Val di Susa, ma di tutti e tutte quelle che credono che non si possa rinunciare alla libertà e alla dignità tanto facilmente. La firma incalcia i nostri manifesti di Genotav, una garanzia per il futuro. Di questo siamo diventati consapevoli e oggi, sempre meno soli, come ci ha detto la firma al presidio della Maddalena, siamo fratelli di lotta e nella lotta del grande popolo dei beni comuni. La data di questa analisi è quella del 15 giugno 2011. Questa puntata di Indie Radio voglio ormai al termine, vi salutiamo e vi ricordiamo di ascoltarci sempre e solo su Transizione di Fase. Vi ricordo i nostri orari che sono stati cambiati, quindi ci potrete ascoltare venerdì alle ore 21, dalle 21 alle 21.30 circa, e andremo in replica sabato alle 12. Ascoltate Transizione di Fase, ascoltate Indie Radio. You. touch you.